Siamo al telefono con Luca per parlare della seconda edizione di Lupo Festival a Montesole. Intanto ciao Luca, grazie di essere qua e com'è l'atmosfera che si respira? Ciao Mauro, buongiorno a te, buongiorno a tutti e tutte. Ma l'atmosfera che si respira è frizzante perché quest'estate, già che si preannuncia bollente, da questo giugno che è già bollente, ci pone davanti questa ulteriore sfida. Sfida perché è una cosa molto bella, sì, sicuramente un festival ci si diverte, ma è una sfida perché comunque si fa in un posto come Montesole, che è bellissimo e si vuole portare tanta gente lì su per far conoscere quel luogo anche a chi non vi è mai stato. Quindi riempire di musica l'Appennino e creare una nuova socialità, stare tutti insieme. Quindi ricordiamo Lupo 4, 5, 6 luglio al Parco Regionale Storico di Montesole, Marzabotto. Insomma, chi non lo conoscesse è un luogo storico molto importante e voi avete un legame molto forte con il luogo, con la sua storia. E come mai la scelta di fare un festival musicale in un luogo storico così importante? Allora, la scelta è perché comunque qualche anno fa abbiamo conosciuto Fappri, ci è stato assegnato con un bando l'area del Poggiolo, il rifugio che c'è sulla Montesole, e vivendo quei luoghi che appunto abbiamo scelto anche di vivere, ci è sembrato naturale festeggiare la memoria, cioè portare la memoria di quei luoghi e farla arrivare a tante persone attraverso però la musica, attraverso l'arte, attraverso la cultura, attraverso anche il divertimento, che comunque è fondamentale, e per far passare anche alcuni concetti a volte è d'obbligo. Quindi la volontà principalmente è quella, infatti anche la scelta degli artisti è fatta, diciamo, scientemente. Ecco, arriviamo appunto alla scelta degli artisti, perché ci sono due grossi concerti, possiamo dire, che sono gli unici due a pagamento, e tutta una serie di altri, non solo musica, ma altri eventi, quindi principalmente musica, ma anche teatro e tanto altro. Ci fai una carrellata un po' del programma, di quello che possiamo trovare a Lupo? Certo, questa, come dicevi tu, è stata una scelta ben precisa. Nel senso che abbiamo scelto di fare dei concerti, non già dall'anno scorso, dalla prima edizione, abbiamo fatto questa scelta di fare dei concerti a pagamento, ma anche di dare la possibilità di fruire liberamente di un'area del festival. Perché per qualunque motivo, se magari o l'artista non piace, o non ce lo si può permettere, o non si vuole prendere quell'impegno per tempo o altro, diamo la possibilità di fruire anche dell'area e di organizzare dei concerti al di fuori, nella parte che noi chiamiamo Sunset Stage, che è la parte che dà sul tramonto, e quindi per far sì che tutti possano avvicinarsi a Montesole. Il programma sarà questo: venerdì 4 luglio ci sarà, in prima parte con i concerti principali, venerdì 4 luglio ci sarà il concerto di Max Gazzè con l'Orchestra Popolare del Saltarello. Per l'occasione avremo addirittura un nuovo palco, un palco stabile creato con un progetto di PNRR, che è un palco immerso nella natura di Montesole, ve ne accorgerete, sarà molto molto bello. E mentre il 5 luglio ci sarà il live di Guido Rigo, che ricorrono i 25 anni dall'uscita del loro album Rospo, mentre il 6 sarà tutta una giornata gratuita, dove ci sarà appunto DJ Set Chill al pomeriggio e la sera lo spettacolo teatrale di Ateliersi. Questi sono i primi tre spettacoli principali di ogni giornata. Poi gli altri non è che sono secondari, ma gli altri si tengono tutti nella parte gratuita. Quindi abbiamo i concerti che iniziano dalle ore 20, concerto al tramonto, degli Evoè il primo giorno. Dopodiché si passerà appunto nell'area concerto col concerto di Max Gazzè per tornare a mezzanotte sul second stage, dove ci saranno i Folk Atomic, esatto, da Torino, che suoneranno, grande band che mescola il folk all'elettronica, e poi chiudere sempre nell'area free con i DJ set della collettiva elettronica. Questa è la prima giornata. La seconda giornata invece, sempre prima e dopo il concerto di Guido Rigo, prima avremo il live della Columbia Latin Jazz Orchestra, esatto, che è un'orchestra che viene dal Conservatorio di Tolima, che farà pezzi sia della tradizione che pezzi originali, ed è un bel ensemble di 10 elementi. Dopodiché, dopo il concerto appunto dei Quinto Rigo, si tornerà sempre nell'area free con il live bello carico che apre la strada al DJ set di sabato sera, che è il live degli Elettrotubi, band che viene dal modenese e che fa una techno crossover o un techno jazz con i fiati, praticamente fiati e batteria. Dopodiché ci sarà invece il DJ set di un collettivo che è formato da Ragù Records insieme ad altri DJ che vengono dall'area di Modena, da Dario, Sin e Black Filter. Una cosa importante che mi piacerebbe dire è che non l'ho detto fino adesso, è che ci sarà il campeggio gratuito. Questa poi era la prossima domanda, perché essendo Montesole, quindi un'area che non è proprio centro città, per arrivare anche, ti chiedo, perché è una cosa importante, e soprattutto campeggiare, appunto, ci dicevi c'è il campeggio libero e gratuito. Come mai questa scelta e come funziona anche? Allora, intanto la scelta del campeggio libero e gratuito appunto è per dare la possibilità a tutti di poter rimanere la sera lì, di poter rimanere con noi, e non facendo come nella nostra logica solitamente, comunque dando un qualche servizio gratuito. Per noi accogliere le persone è fondamentale, quindi accoglierle in maniera gratuita ancora di più. Il biglietto ci sta che si paghi, ma in quell'area lì, che comunque non è un campeggio organizzato, puoi mettere la tua tenda dove vuoi, naturalmente l'area sarà pulita, noi mettiamo i servizi a disposizione, per cui ci sono i servizi, ma l'area è libera, quindi andare a fare un free camping in mezzo alla natura, secondo noi, è un'esperienza bellissima da poter offrire anche a chi non l'ha mai vissuta. E questa è la nostra scelta. Per quanto riguarda invece sul come arrivare, quest'anno si potrà arrivare fin su direttamente con l'auto. Le navette sono state uno strumento molto interessante, le riprenderemo probabilmente l'anno prossimo, ma quest'anno organizzare un servizio di navetta è molto difficile, per cui abbiamo deciso anche di dare la possibilità a tutti di arrivare in autonomia su a Montesole attraverso il car sharing con la propria auto, oppure arrivando in treno da Bologna e poi da Pian di Venola prendendo una navetta, metteremo una navetta elettrica, probabilmente, ancora non è sicuro, ma probabilmente metteremo una navetta elettrica a disposizione che porterà quelle persone che vogliono venire con la mobilità sostenibile su a Montesole. Perfetto, e guarda, io ti chiedo solamente, hai qualcos'altro da aggiungere, cose tecniche magari per usufruire al meglio, per godere al meglio di Lupo? Ma per godere al meglio di Lupo posso consigliare di prendere la tenda e venire su, prima cosa, di arrivare per tempo, non arrivare all'ultimo momento, soprattutto il venerdì sera, e di prendersi un weekend lungo per godersi anche i dintorni, perché di giorno uno può andare al fiume a rinfrescarsi e la sera tornare nell'area concerti. Quindi venite, è importante sostenere la memoria, è importante conoscere i luoghi di Montesole e vi aspettiamo. Perfetto, allora per darci appuntamento a Montesole, a Lupo, ricordiamo 4, 5, 6 luglio, Montesole Marzabotto, il parco regionale storico di Montesole, ti chiedo se vuoi scegliere tra le band che fanno parte della lineup di quest'anno una canzone per salutarci e darci appuntamento al festival. Sì, certo, innanzitutto volevo ricordare una cosa in più. Permettimi, Mauro, vai. Che mi sono dimenticato di dire, abbiamo dato anche la possibilità, per quanto riguarda i biglietti dei due concerti, di acquistarli per i residenti degli 11 comuni dell'Appennino, dell'Unione Comuni Appennino Bolognese, a prezzo ridotto. Quindi questa secondo me è anche una cosa molto importante. Che manifesta sempre il vostro legame forte con col il territorio. Territorio, sì. Assolutamente, questa è una cosa importante che ho dimenticato di dire. E per chiudere in bellezza, visto che ricorre il 25esimo dall'uscita di Rospo, dei Quinto Rigo, io ti chiedo proprio Rospo. Perfetto, allora ci ascoltiamo Rospo, appuntamento a Montesole con Lupo Resistente, 4-6 luglio, grazie mille Luca e insomma in bocca al lupo per tutto. Viva, vive il lupo.